anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia, y sediento de luz te nombro hermano, en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, calla pan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, mi cara plantera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, calla pan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, mi cara plantera te grita presente. Cuando apareciste, llegaste a nosotros con tus ojos miopes, azules intensos. Fuiste desde entonces el hermano terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo, y al día siguiente de nuestro encuentro vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, pelecán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, pelecán vencedor de la muerte, Nicaragua entera te grita presente. Una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo, y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto, desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro. Carlos, Carlos Fonseca, allá acá vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Carlos, Carlos Fonseca, allá acá vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, pero te grita presente. Cuando los afiches del tirano sean insepultas, huellas de la escoria, cuando los traidores y cobardes sean referencias de una vieja historia, las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando aurora. Buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questo è il consueto, anzi non è il consueto sabato sera, perché non è né una puntata di Tonight Alive né di Basement Records, bensì è una puntata speciale per festeggiare i due ospiti che ho stasera in trasmissione qui a darmi mano. E per farsi raccontare tutte le esperienze, o almeno una parte delle loro esperienze vissute appunto in quel del Sud America, perché il punto focale di stasera è il ricordo della rivoluzione sandinista a 43 anni da quel 1979. Ho qua con me due graditissimi ospiti che l'hanno proprio vissuta personalmente, il Nicaragua di quegli anni. E questa era la sigla di stasera, era di un grande compositore nicaraguense, il signor Godoy. E questa era una canzone storica, era il comandante Carlos Fonseca, che è stato uno dei più importanti, diciamo, comandanti di brigata, possiamo dire, della rivoluzione sandinista. Sì, sì, era proprio considerato un po' il capo del fronte sandinista. Qui il primo ospite a fianco a me, la voce l'avrete riconosciuta, è il grande Sansa, proveniente dai Libri Ribelli. Benvenuto. Ciao. Appunto, dicevo, questa qui è forse la canzone più cantata e più amata dai nicaraguensi durante subito dopo la rivoluzione. Sì. Carlos Fonseca è proprio un emblema, perché purtroppo è stato ucciso nel 1975, quindi 4 anni prima della rivoluzione, dalla Guardia Nazionale. Tant'è vero che poi nell'introduzione che abbiamo sentito, quello che parlava era un altro comandante, Tomás Borges, e Tomás Borges dice appunto che era in carcere e che arriva un ufficiale della Guardia Nazionale e gli dice che Carlos Fonseca era morto. E lui dice: eh no, Carlos Fonseca è di quei morti che non muoiono mai. E quindi, diciamo, prima di tutto sicuramente era un personaggio molto importante, ma come dicevo appunto è un po' l'emblema di quella rivoluzione. Poi ha fatto la fine, ha fatto, lo vedremo poi più avanti, non è purtroppo la sola rivoluzione che ha fatto una brutta fine, però insomma è interessante vedere come si è sviluppata, che cosa è successo, come l'abbiamo vissuta anche noi. Certo. E tra l'altro questo pezzo che abbiamo sentito faceva parte di una collezione di due cassette che uscirono per il decimo anniversario, nel 1989, per il decimo anniversario della rivoluzione, e appunto questo pezzo è di Carlos Mejía Godoy, Hilos de Palaguinas, che è Palaguina. E ne sentiremo altri stasera, perché certo, in fondo è il gruppo forse, diciamo, che fa musica in quel periodo in Nicaragua che si è dato più da fare. Sì, soprattutto appunto nell'ambito della rivoluzione sandinista. Un caro saluto anche all'altro ospite di stasera, a Emilio. Grazie per essere intervenuto qua ed essere venuto stasera negli studi di Radio Wombat. Grazie a voi. avremo occasione comunque di confrontarci insieme nel proseguo della puntata. Se mi conoscete sapete che sono un prolisso e mi piace puntualizzare le cose, quindi come introduzione alla puntata di stasera, visto che specialmente per quelli dalla mia generazione in giù la rivoluzione sandinista è una cosa che ci è arrivata molto molto blandamente, molto di straforo, perlomeno che uno non si sia informato a livello personale, mi sembrava opportuno fare un'introduzione alla storia del Nicaragua per capire come siamo arrivati appunto all'inizio della lotta e dell'inizio della rivoluzione sandinista. Non andrò tantissimo indietro, però partiamo comunque da metà dell'Ottocento, quando inizia la guerra civile in Nicaragua nel 1850, e già nel 1856 c'è il primo colpo di Stato da parte dei relativi vicini di casa, ovvero degli Stati Uniti d'America, che con delle finte elezioni faranno eleggere come presidente del Nicaragua questo avvocato americano di nome William Faulkner. Tra l'altro, appunto, sì, anche perché gli americani hanno sempre avuto interesse, avevano adottato questa dottrina Monroe, che diceva appunto che i paesi del Centro America e del Sud America erano il proprio giardino di casa e che quindi dovevano per forza sottometterlo. Metterli, sì, perché tutti i vicini di casa dovevano essere comunque filo americani per non interferire con gli interessi soprattutto economici degli Stati Uniti. Poi questo primo colpo di Stato poco dopo del 1850 fallì perché ci fu una coalizione dei paesi centroamericani in quel periodo capeggiati dall'Honduras, che sventarono appunto questo golpe dell'avvocato William Faulkner. E già dalla fine dell'Ottocento, dal 1893 fino al 1909, invece a dirigere e a fare il presidente del Nicaragua ci sarà un generale, il generale Zelaya, che nonostante fosse un militare, però riuscì a far proseguire lo sviluppo del paese e soprattutto a dare un periodo di stabilità in un paese devastato dalla guerra civile. Fece anche sviluppò l'economia e specialmente nella sua parte finale della presidenza, verso un disimpegno per riuscire a uscire dalla sfera di influenza americana, cosa che puntualmente, come gli Stati Uniti appena si resero conto delle intenzioni del generale Zelaya, organizzarono subito un altro colpo di Stato nel 1909 e fu rovesciato appunto il generale. Da lì, dagli inizi del Novecento, dal 1910 al 1926, seguirono 16 anni del partito conservatore nicaragüense, ovviamente filo americano, quindi diciamo che fu mantenuta una certa stabilità anche in quel senso, però come grande classico della politica estera americana lo teneva un po' veniva gestito e amministrato un po' come il giardino di casa degli Stati Uniti d'America. Però poi nel 1927 avvenne la prima occupazione militare del suolo nicaraguense da parte dei Marines americani, che presero come pretesto l'interruzione dei lavori dello stretto del Nicaragua ovviamente per tutelare i propri interessi economici, visto che ormai avevano già preso possesso nel 1914 dello stretto di Panama. Dello stretto di Panama, e quindi la costruzione di un nuovo stretto in Centro America sarebbe andato contro i loro interessi, e quindi tolsero gli indugi e occuparono proprio militarmente il territorio nicaraguense. Quindi la prima occupazione militare vera e propria del Nicaragua nel 1927. E appunto da quel 1927 entra in scena nell'anno precedente, nel 1926, una figura che poi diventerà centrale per la politica soprattutto degli anni successivi, e poi per quello che diventerà la rivoluzione sandinista, ovvero inizio la guerriglia nel 1926 di Augusto César Sandino, che il nome vi dovrebbe dire qualcosa. Grande uomo. Esatto, piccolo di statura, ma grande come personalità e come carisma. E appunto il cognome vi dovrebbe dire qualcosa, perché Sandino fu colui che ispirò poi il fronte sandinista, che verrà aperto ufficialmente nel 1961, quindi comunque quasi 40 anni dopo. E ebbene, comunque, aprire una parentesi su una figura centrale come quella di Sandino, figlio illegittimo, già abbandonato dalla madre all'età di 9 anni, ha dovuto passare l'infanzia lavorando con la famiglia materna, che era quella che ovviamente l'aveva disconosciuto essendo illegittimo, e già a 21 anni dovette fuggire dal Nicaragua perché sparò al figlio di uno dei delle personalità più importanti del Nicaragua di quel tempo, e quindi dovette fuggire dal Nicaragua, e si rifugiò inizialmente, dopo aver finito il giro del Nicaragua, in Honduras, poi in Honduras, poi in Guatemala, e infine finì il suo viaggio in Messico, dove conobbe l'inizio di tutta quella rivoluzione che stava avvenendo in Messico. Conobbe i primi rivoluzionari anarchici, i primi rivoluzionari comunisti come Pancho Villa, cioè non lo conobbe personalmente, però conobbe insomma tutto il movimento rivoluzionario messicano, e da lì prese coscienza appunto che era possibile anche una lotta nel suo paese. E infatti ritornò nel Nicaragua nel 1926 e fu il pioniere dell'uso della guerriglia contro gli eserciti regolari, tutto quello che poi vedremo poi in Vietnam, in Algeria, tutte quelle rivolte provenienti dal basso, appunto contro i vari eserciti oppressori, degli eserciti regolari. Sandino, li possiamo comunque riconoscere di essere stato uno dei primi fautori di questa nuova tecnica di lotta, che, come poi sappiamo, nei decenni successivi ha fatto molto più che scuola, ecco. E Sandino è stato una leggenda, perché è stato il primo rivoluzionario a sconfiggere l'esercito americano e i Marines, e a farli poi andare via dal Nicaragua nel 1933. I Marines 32, nel 32, che era Cioè, fu anche un effetto della Grande Depressione negli Stati Uniti, sì. Certo, senza ombra di dubbio non arrivavano più i finanziamenti che sarebbero potuti arrivare senza la Grande Depressione, non ci sono dubbi su questo fatto, però fatto sta che furono scacciati per la prima volta da un paese che tentarono di occupare, e Sandino li ricacciò e li rispedì dall'altra parte della costa e li fece ritornare negli Stati Uniti. E appunto si ritirarono da sconfitti nel 1932, uscirono sì certo dal Nicaragua, però comunque mantenendo sempre un controllo a livello politico. Infatti finanziarono poi quello che diventerà il futuro dittatore del Nicaragua, ovvero Somoza, Anastasio Somoza, che tra l'altro attraverso un tranello fece poi uccidere Sandino ed altri generali del nuovo esercito nazionale con una trappola. Li convocarono all'allora palazzo presidenziale e poi li portarono in cima a un colle e li fucilarono. Questo anche perché in effetti, diciamo, Sandino era un uomo di un'onestà assoluta, eccetera, e si fece un po' fregare in quanto uomo di un'onestà assoluta, cioè nel senso che lui trattava con Salvatierra, Sacasa, che erano quelli che in teoria tenevano il potere. In realtà il potere reale era nelle mani, però, quello vero, della Guardia Nazionale, e a capo della Guardia Nazionale c'era Anastasio Somoza. Quindi Sandino fece un trattato di pace. In questo trattato di pace era prevista la consegna delle armi, e effettivamente, perlomeno in gran parte, le consegnarono. A quel punto la Guardia Nazionale, comandata da Somoza, incominciò ad uccidere quelli che erano i partecipanti della guerriglia di Sandino. E la quindi, colonna segoviana. Esatto, perché erano più che altro nelle Segovias, no? Sì. Che erano un po' questi altopiani, insomma, no? del Nicaragua. E poi da lì, appunto, con l'uccisione di Sandino verrà definitivamente spalancato le porte a quella che poi diventerà una dittatura familiare, perché poi oltre appunto a Anastasio Somoza succedettero i suoi figli, Luis de Bailé e Anastasio de Bailé, che fu l'ultimo poi nel 1979 a essere destituito. Una cosina, no? Anastasio Somoza de Bailé, appunto il figlio, era un grande amico per esempio di Mussolini, tant'è vero che al mercato oriental, che è uno dei mercati più importanti appunto di Managua, quello diciamo un po' della zona povera, diciamo così, e che oggi è tristemente famoso per altre cose, perché purtroppo quando poi le cose non vanno come devono andare, per esempio lì ora è diventato il posto di quelli dei ragazzini che si drogano, insomma c'è delinquenza eccetera eccetera, però lì era possibile vedere negli anni successivi alla rivoluzione il famoso regalo di Mussolini, perché De Bailly era un grande amico ovviamente di Mussolini e gli aveva regalato un carro armatino che sembrava giocattolo e che poi venne esposto lì appunto al mercato orientale con una targa messa dai sandinisti che diceva appunto: questo è il regalo del dittatore Mussolini a Somoza de Bailé. Ed era buffo perché insomma era lungo 2 metri, era alto 1,5 metri, sì, ci stava un omino, insomma. Voglio immaginare proprio la tecnologia dei carri armati italiani. Se non mi sbaglio c'era anche la statua di marmo a cavallo con su Mussolini, che gli fece tagliare la testa e mise la testa di di Somoza al posto sì, di Mussolini. Sì, sì, ah, sì. Chiamiamolo poco. Folklore, folklore. Sì. diciamo così. Allora, poi appunto ci fu questa lunghissima dittatura della famiglia Somoza e nel 1961, altra data importantissima, vede la nascita del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, appunto. E un altro punto determinante da ricordare, che è stato una delle cause che poi ha fatto sfociare definitivamente la rivoluzione sandinista e la caduta appunto della dittatura dei Somoza. Altra data importante è il 1972, quando un terrificante terremoto devastò il Nicaragua e in particolare Managua. Però in questo terremoto devastante, che sconquassò completamente il paese e fece accendere i riflettori anche all'attenzione della politica internazionale, infatti iniziarono anche con l'ONU e altre associazioni a iniziare a mandare aiuti appunto al Nicaragua. Però uno delle questioni scatenanti appunto che ha portato ancora maggior fuoco a quello che diventerà la rivoluzione sandinista è che Somoza praticamente si era fatto fuori praticamente tutti gli aiuti internazionali che erano destinati alla popolazione. No, ma costruì un grande albergo internazionale. Sì, l'unica cosa comunque l'unica cosa per i suoi amici fondamentalmente per gli americani. Esatto. Perché come succedeva anche a Cuba prima della rivoluzione cubana, in effetti anche lì c'è la prostituzione, queste cose qua, per cui gli americani chiaramente ci andavano, no? Perché lì era un bel posto per gozzovigliare a modo loro. Tra l'altro, appunto, per chi è stato a Managua si rende conto che è una città strana, particolare, perché in effetti appunto anche dopo la rivoluzione è rimasto appunto il fatto che, siccome non era stato ricostruito nulla se non appunto il grande albergo eccetera eccetera, per cui Managua è un posto dove c'è, che ne so, un chilometro di verde, no? Vabbè, può anche piacere, e poi c'è magari un barrio, insomma c'è sì, un agglomerato di case, poi ancora del verde, no? Perché non è stato ricostruito e quindi diciamo è una città a chiazze. No, sì, per proprio in... famosa anche per essere una città, almeno mi ricordo che ci raccontavano, l'unica città al mondo che non c'ha degli indirizzi. No. Te andavi in un posto e ti dicevano: dalla vecchia gasolinera due una quadre al sud, una a est, e ti orientavi così. Non c'erano gli indirizzi. Perché praticamente ci sono le strade, ma non c'è la possibilità, sarebbe assurdo mettere i numeri civici, certo, perché magari una casa è a un chilometro di distanza dall'altro, poi c'è un agglomerato, poi reinizia, perché proprio a causa del terremoto che non c'è stata nessuna ricostruzione, per cui tutto poi è ritornato alla natura. E piano piano diciamo gli abitanti si sono ripresi degli spazi. Sì. Via via, appunto, questo era il 1972, questo è il terremoto del Nicaragua, e appunto Managua fu duramente colpita da questo terremoto. E poi arriviamo alla fine dell'introduzione con l'ultima data storica, il 19 luglio del 1979, che è la data della vittoria della rivoluzione sandinista e del rovesciamento della dittatura della famiglia di Somoza, appunto, in questo caso Anastasio Somoza, uno dei figli dell'Anastasio originale, dinastia Somoza. Della dinastia Somoza. E quindi, dopo aver finito questo cappello direi introduttivo, direi magari si potrebbe mettere una cosa, perché sì, appunto, anche per capire come fu quella rivoluzione, certo, diciamo che parecchio si dettero da fare gli adolescenti e anche i bambini. Ora, in questi giorni ho rivisto, insomma, le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi, sì, e ecco, era una situazione abbastanza simile. Lì erano i ragazzini, insomma, che partecipavano alla cacciata dei tedeschi, e anche in Nicaragua fu così. E magari si potrebbe mettere un pezzo, certo, sì, che è sì, che è Un Niño Combattiente, Los Explosivos, che è in chitarra armata, sempre di Carlos Mejía Godoy, trovato. Los de Palaguinas, dove all'inizio c'è una specie di breve introduzione di un bambino che parla e dice perché partecipa alla rivoluzione. Dopodiché c'è una cosa, Los Explosivos, che è, ecco, anche da qui c'è da dire che al momento della rivoluzione in Nicaragua, ovviamente avendo un soggetto come, o meglio, dei soggetti come la dinastia Somoza, c'era il 50% di analfabeti. Oggi siamo invece all'85% di alfabetizzati, e già subito dopo la rivoluzione ci fu una grande campagna di alfabetizzazione che portò a questo 85%. Anzi, ora c'è un po' di regressione, pare, un po' di analfabetizzati di regresso. Ma quello non solo in Nicaragua, credo un po' ovunque nel perché nel erano mondo arrivati all'88% di alfabetizzati. E allora che succedeva? Che per esempio questi Carlos Mejía Godoy, ma anche altri, insomma, facevano canzoni. In pratica, per poter insegnare a fare la guerriglia, a fare la rivoluzione, le mettevano in musica. Per certo, cui in questa, il metodo più diretto. In questa canzone, per esempio, spiegano dove si possono trovare i componenti per creare gli esplosivi, dove si trovano degli esplosivi già fatti, come si innescano gli esplosivi, come si fanno esplodere gli esplosivi, dopo appunto questa specie di, non intervista, perché sono due domande a questo ragazzino che fa la rivoluzione. Benissimo, ce la sentiremo subito. Un Niño Combattente. E Los Explosivos. E Los Explosivos. Pezzi insieme ai prezzi. Sempre qui a Radio Wombat. Perché lucha más allá. Por una patria mejor, mejor gobierno, una democracia, ser libre. ¿Y ustedes creen que vamos a triunfar? Sí, ¿no? Tenemos que triunfar. Para vencer al tirano y su Guardia Nacional hay que meterse al fogueo, no retroceder jamás. Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular. Estas son las coplas, obra libertaria, de la gigantona revolucionaria, que con su comparsa de liberación va de calle en calle llamando a las masas a la insurrección. ¿Cuáles son los ingredientes del detonante casero? Está el nitrato de amonio y está el aluminio negro. El perclorato, el nitrato y el clorato de potasio y otros muchos materiales como asfalto, goma o caucho. Cuando se acerca el momento de la ofensiva final, a la calle todo el pueblo a poner su grano de maíz. Queremos ver en tu casa para las bombas construir carbón vegetal y grasa, azúcar y acerrín. Estas son las coplas, copla libertaria, de la gigantona revolucionaria, que con su comparsa de liberación va de calle en calle llamando a las masas a la insurrección. Compañero, estas balas fueron recuperadas en las calles de Matagalpa. O sea, son balas que sirvieron al enemigo. Pero ahora que las tenemos nosotros, ya no son las mismas. ¿Sabe por qué, compita? ¿Por qué estas balas nos están sirviendo ahora para conquistar la libertad? Échele morona, compita Venancio, de las municiones échele un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échele morona, compita Venancio, de las municiones échele un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Vamos a ver qué nos dice la bala ordinaria. ¡Véntrale, compañerita! Yo por ser la común y ordinaria me siento en un nivel muy inferior. Soy la bala certera, endemoniada, henchida de eficacia y de rigor. Pobreza como un indio americano, por ser de furia voy a lo que voy. Desde que salgo al viento voy corazón del opresor. Échele morona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échele morona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Ahora le toca el turno a la perforante incendiaria. A ver, compañera, dé un paso al frente y... Yo soy la munición por excelencia, sin despreciar a nadie en esta lid. Mis posibilidades en la guerra explican el por qué yo estoy aquí. Como incendiaria grito siempre lista, y como perforante rauda voy. Yo soy la rojinegra sandinista, yo soy por vocación la munición. Échele morona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échele morona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Miren quién viene por aquí. Nada menos que la trazadora, la que le asustó los frijoles al chihuí, al hijo del dictador. ¡Éntrale, compita! Yo soy la trazadora combativa, anaranjado vivo mi color. No tengo propiedades expansivas, pero hago lo que puedo en mi fulgor. Yo soy la quiebra plata, soy la guía vaquiana de la noche, siempre fui luciérnaga feliz de la guerrilla. Soy brújula del recio proyectil. Échele morona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échele morona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Aquí viene la última, la de fogueo, la que lanza las granadas, pero... ¿Cómo es este asunto? Si esta compa solo es la pura cápsula. Y hay puro aire, pues. A ver qué nos dice, hombre. ¿Yo qué puedo decir de mis valores si ni siquiera tengo proyectil? Es como sin tener mecha ni llama, quisiera ser antorcha o ser candil. En mi viudez de cápsula vacía va el alma del hermano que cayó, lanzando en el umbral de su partida una granada de fragmentación. Échele borona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échele borona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Giustamente alla fine, manuali in musica, come sì, stavamo sì, dicendo fuori onda, appunto. E non è il solo, anzi, magari ora ce ne sentiamo qualcun altro, perché in effetti, appunto, questo era il modo di insegnare la guerriglia, cioè di come utilizzare anche le armi. Le armi di solito loro se le procuravano direttamente dalla Guardia Nazionale, cioè nel senso, le rubavano. Sì. Sono quasi tutte di provenienza di quel tipo lì, qualcosa forse arrivava da Cuba, eccetera, però la gran parte erano quelle. Tanto è vero che, per esempio, ci possiamo sentire, se vuoi, un certo altro pezzo che parla del Garant, no? Che chi ha fatto il militare, magari a tempi mia, anche da queste parti, insomma. Sì, sì. E qui spiega come funziona il Garant, per esempio, che ce l'abbiamo trovata, in chitarra armata 1. Bene, e sentiamoci anche questa, poi sì, magari si fa due chiacchiere. Certo, sentiamoci anche come si usa il Garand. per chi non ha fatto il militare, insomma, può imparare. E questo è sempre Carlos Godoy. Sì, sì. E il Garand. Aquí cuando vos quitas el Garand, pones el guardamonte. Desde que el Garand, digamos así, con un hoyo que donde voy a ensamblar, agarras el Garand así, ve a este lado y plano, entonces sale la caja toda y te queda el cuerpo del arma. Entre todos los fusiles, este Garand es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. Hasta 5 cuadras llega su tremendo proyectil. Pesa 10 libras completas, 8 tiros tiene el clip. El Garand está compuesto por 3 piezas y estas son... Vale. Caja de los mecanismos, cilindro de gases y el mero cañón. Ante todo coloquemos las piezas de este fusil en alineación bien hecha, de izquierda a derecha, que es mejor así. Quitemos primero el peine, hagamos bien la inspección, porque a veces vale en boca, esto nos provoca la peor situación. Entre todos los fusiles, este Garand es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. Tomamos el guardamonte del gatillo, sí señor. Hacia abajo y atrásito viene chorreadito su disparador. Separemos al instante la culata del cañón. El guardamonte agarremos y desenrosquemos del gas el tapón. Desenchufemos ahora todito el obturador. Vamos al siguiente pase y el cilindro de gas se quitó de un envión. Sacamos seguidamente el guardamano inferior y empujando la varilla la apartó del brazo del elevador. Entre todos los fusiles este Garand es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga el pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. El manubrio y el cerrojo tienen su separación, y este cerrojo bendito sale talladito de su posición. Y de este modo, compitas, se acaba la operación. El fusil ahora armemos para que acabemos con el opresor. Entre todos los fusiles, este Garan es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga el pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. Ahora sí nos vamos, compita. Cada responsable a su tesón, como quien dice, cada loro su guanacache. ¡No fui! Questo era il manuale del Garand, praticamente. Sì, se vogliamo possiamo continuare, perché ce ne sono altri. Sì, c'è il FAL, c'è il FAL e le munizioni. Magari la carabina M1, vabbè, la tralasciamo troppo. Però appunto, per capire, tra l'altro la carabina M1 è qualcosa di molto, abbastanza antiquato, insomma, no? Ah, già nel 79. Però veniva utilizzato tutto ciò su cui era possibile mettere le mani. Trovare, certo. Anche le fionde. Anche le fionde di tutto, proprio anche perché, come dicevo prima, insomma, no, è stata una guerra di popolo. E più che altro i maggiori protagonisti sono stati proprio i ragazzi. Insomma, ce l'hanno fatta. Poi dopo... Poi vedremo come è andata a finire, certo. Magari ci possiamo sentire un'altra cosa? Che oh, certo. Che è se il FAL? Sentiamoci il FAL, allora. Il FAL lo conosciamo anche noi, insomma. No? Sì, sì, sì. Lo conosciamo. Chi ha fatto il militare. Il Garand e il FAL andavano a braccetto, insomma. E sentiamoci anche il manuale musicato sull'uso del FAL. Che è se il FAL? Sempre di Godoy. Radio Wombat. Upa! Che passò con il Tahuano? Dígame algo ahí sobre el falsificado, a ver. Parareglemela. Aquí le va tupido, compita. Gracias. El FAL, preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, este animal tira todo, si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. El FAL ya desde la entrada tiene la estampa de un gran fusil, metralla de bello estilo, de 20 tiros su magazine. Si aprieto el gatillo ladra, y a 4 cuadras su alcance da, y a 5 cuadras completas, una avioneta se puede apiar. ¿Qué es el FAL? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, ¿qué hubo la compita? Este animal tira todo, si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. Para empezar la tarea, va para afuera su magazín. Y ahora lo cajonero, que no se quede ni un proyectil. Claro. Machistas nunca seremos, pero tendremos que proceder. ¿Cómo? Quitando el tornillo macho del otro que hace de la mujer. ¿Qué es el FAL? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, ¿qué pasó, compa? Este animal tira todo, si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. quebramos el arma ahora, llegó la hora de separar. La laminita del cierre, la masa viene saliendo ya. Retiramos la cubierta y así logramos del sopetón poner a un lado este asunto y aparte el conjunto del cañón. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumersindo con acento popular. ¡Compa! ¿Qué pasó, compita? Este animal tira todo. Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. Cuando el tapón de los gases fuera de base lo pongo yo. La varilla y su consorte, que es el resorte, sacando voy. Separo el pistón de gases de su resorte matrimonial. Y así queden puras piezas esta belleza llamada fal. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumersindo con acento popular. Compa, ¿qué? Este animal tira todo. Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. ¿Para dónde va, Juancito? A desarmar mi fal, hombre. Ya le agarré toda la movida. Ajá. ¿Y cómo vas a hacer para lanzar la granadita? ¿Ah? Hijo de la pichincha, si me escapaba de eso, hombre. ¿Y cómo me las arreglo para lanzar las granadas? Muy sencillo, hombre. Te fijas en el tapón del cilindro de los gases. Ajá. Y con esta musiquita vas de viaje. Aquí te va. Gracias. ¡Ay! Cuando en la parte de arriba vemos escrita la letra A, eso ya te está indicando que estás buscando un tiro normal. Pero si en el mismo sitio GR vemos con precisión, el arma está preparada para granadas al por mayor. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumersindo con acento popular. Compa Juan. ¿Qué huele, qué huele? Este animal tira todo. Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. Bueno, no te olvides de ponerle el tromblón y regular los gases de los primeros números. ¿Estamos claros? E questo era il fal. Un altro manuale di uso e manutenzione. In musica, diciamo, no, così. È simpatico. Sì, certo, assolutamente. È proprio direi uno spaccato del periodo che fa capire appunto su che territori si muoveva la guerriglia e appunto come potevano fare per istruire il popolo, appunto, al combattimento. Sono dei documenti molto interessanti, ecco, anche perché a ripensarlo oggi sembra chissà cosa, ma invece era un'idea geniale. Oggi, sì, il contesto oggi, storico è molto importante. Oggi nel mondo di internet, ovviamente. Sì, a quei tempi, appunto, probabilmente per riuscire, insomma, a veicolare, no, certe informazioni, certe cose, questa era uno dei modi, certo. Forse quello più diretto. Sì. Ma anche perché cantandola ti rimaneva in testa e uno, cioè, detto, c'era questo fatto, certo, appunto, che la metà della popolazione era analfabeta, per cui non è che gli potevi mettere in mano un foglio, cioè, per manuale, spiegarti, no? Cioè, e quindi era questo il modo. Certo. Se vogliamo ce ne sentiamo l'ultimo, perché sennò poi basta, perché chiaramente per i FAL, per i Garant e anche per tutti quegli altri, carabine M1, ci volevano le munizioni. E ce n'è uno che spiega anche tutte le munizioni, quali usare, come usarle, eccetera, eccetera. Ci sentiamo magari anche questa, poi basta, passiamo ad altro. passiamo oltre, ok. Sentiamoci anche la terza, la parte delle munizioni, che ora vado a ricercare. È sempre... No, l'ho messe tutte insieme, e quindi adesso le devo ricercare. Sì. Carabina M1, questa non ce l'ho, le munizioni non le trovo. Ma che è possibile? E se no, vabbè, se no andiamo avanti. Ah no, le munizioni se l'abbiamo sentita, No, sentita per... gli esplosivi, vabbè. Andiamo, vabbè, andiamo avanti, oltre i manuali. Allora, un'altra cosa significativa di questa rivoluzione è che viene chiamata anche la rivoluzione dei poeti, perché parecchi di quelli che hanno partecipato facevano anche poesia. Uno dei più famosi è Ernesto Cardenal, che poi diventerà ministro della cultura e che tra l'altro era un gesuita, se non sbaglio. Sì. Anche perché un'altra caratteristica, insomma, della rivoluzione sandinista era il fatto che in quel periodo c'era tutto il discorso della teologia della liberazione, per cui nel primo governo dopo la rivoluzione c'erano ben tre religiosi, diciamo, cattolici, che erano appunto Ernesto Cardenal, il fratello Fernando Cardenal, che era un frate trappista se non sbaglio, e Miguel Descoto era un prete. E in effetti, per esempio, Cardenal Fernando, il fratello, era ministro dell'educazione. E in effetti, tra l'altro, anche questo fatto, insomma, no, che fossero presenti questo tipo di religiosi, perché nel contempo non tutta la Chiesa era dalla parte ovviamente dei sandinisti. Mi posso immaginare. C'era anche invece la parte di destra, per esempio il cardinale, poi diventerà cardinale, il vescovo Obando y Bravo, che era l'arcivescovo di Managua, era schierato invece dall'altra parte e continuerà ad esistere anche dopo la rivoluzione a stare dall'altra parte e a cercare in tutti i modi di ostacolare i sandinisti, perlomeno quelli della prima fase. E quindi anche rispetto a questo magari ci possiamo sentire delle cose un po' più di folklore, ma che rientrano nel folklore, diciamo, della rivoluzione sandinista. Per esempio, da El Son Nuestro de Cada Día, sempre di Carlos Mejía Godoy, però in questo caso c'è anche Enrique, il fratello, eccetera, è Il Cristo de Palaguina. E parla appunto, perché Carlos Mejía Godoy, appunto, i Los de Palaguina sono di quel posto lì, e in effetti quindi raccontano di questa storia del Cristo di Palaguina. Vabbè, sentiamocela. E tra l'altro, ecco, l'ultima cosa, poi ce la sentiamo davvero. Questo faceva presupporre il fatto appunto che ci fosse anche una certa capacità, insomma, di ascoltare anche altre voci, di sentire appunto il governo in cui ci sono anche questi personaggi, questi cattolici, che tra l'altro anche loro hanno fatto guerriglia, anche loro hanno partecipato combattendo, per esempio appunto a Solentiname, insomma, no? Che è appunto in questo posto in mezzo al lago grande del Nicaragua, dove ci sono appunto questi vulcani nel mezzo, eccetera, eccetera. Per esempio lì si sono dati molto da fare anche i religiosi, insomma, contro la dittatura di Somoza. E quindi questo faceva presupporre che questa rivoluzione probabilmente non avrebbe fatto la fine, per esempio, di quella russa con Stalin, della Romania di Ceausescu, di quella dell'Albania di Enver Hoxha e così via. E invece poi, lo vedremo, dopo purtroppo si è creata una casta politica che si è aggrappata al potere, non lo molla più, e è diventata molto diciamo repressiva, sia nei confronti di una sinistra sandinista, più che altro impersonata, ma anche da qualcun altro, da una delle comandanti, che è Dora Maria Telles, sia anche in qualsiasi tipo, insomma, no, di dissenso, in qualsiasi tipo di contestazione rispetto a quella la casta, che è diventata la casta di potere di Ortega. E qui già siamo nell'odierno, grazie. Però sentiamoci appunto questo Cristo di Palaguina. Palaguina, sempre qui a Radio Wombat. Io vo. Partita. Montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacatlina de Chetel, Pavón, Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la copa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La gente es para mirarlo, se rejuntaron en un bolote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetitas de idioma y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacatlina de Chepe, Pavón, Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Se me catella todito el villa, lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que rico, igual que el tato sea carpintero, pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser... Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Preguntarán por mí. Le dirán que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. E appunto questa era El Cristo de Falagüena. Ritornando in studio, La rivoluzione sandinista ha visto anche l'intervento di moltissime brigate internazionali, non ai livelli della guerra civile spagnola, però insomma la componente internazionalista anche nella rivoluzione sandinista era importante, specialmente per quanto riguarda i paesi soprattutto centroamericani, però comunque come abbiamo sentito e come abbiamo testimonianza anche qui direttamente in studio, ci sono stati anche molti aiuti da parte europea come possono sì. testimoniare anche i nostri ospiti di stasera. C'erano ragazzi di tutto il mondo in quei 10 anni. Non direttamente, probabilmente nel periodo proprio ante 79, prima della rivoluzione, ma subito dopo. In effetti c'è stato un grosso apporto, tant'è vero che molti sono andati lì con organizzazioni non governative, sono stati fatti un sacco di progetti, per esempio uno che io ho conosciuto, insomma, è stato quello di creare un'azienda apicola nella zona di Matagalpa. Io personalmente ho partecipato a un progetto in Costa Atlantica La costa atlantica, tra l'altro, boh, magari ne parliamo, la costa atlantica è un luogo abbastanza particolare, perché poi dopo la rivoluzione proprio all'interno del Nicaragua stesso, sì, perché poi dopo la rivoluzione chiaramente gli Stati Uniti non è che fossero contenti di ciò che stava succedendo, come al solito, per cui invece di fare la Baia de Porci come fecero a Cuba, che gli andò male, lì si inventarono un discorso appunto di cercare di buttare contro il sandinismo e contro la rivoluzione sandinista un'etnia, più che altro i Miskito. Non tutti aderirono, perché non tutti i Miskito, anzi nemmeno la maggioranza dei Miskito aderirono a questa cosa, però un po' perché li pagavano e da quelle parti insomma faceva particolarmente comodo, ecco, perché tra l'altro in Costa Atlantica c'è una storia particolare. La Costa Atlantica è stata in qualche modo colonizzata, se vogliamo, più forse che altre parti del Nicaragua, dagli Stati Uniti, tant'è vero che mentre il Nicaragua è fondamentalmente cattolico, in Costa Atlantica del Nicaragua, per esempio, c'erano le famose chiese evangeliche. Ma era forse la parte che prima era sotto il protettorato britannico? Sì, tanto è vero che parlano un crioglio, si dice, cioè una lingua strana che è un misto di quello che è il linguaggio, insomma, degli amerindi, dell'etnia, e l'inglese, cioè quasi una specie di pidgin, via. Esatto. E tra l'altro appunto queste chiese evangeliche sono state portate fondamentalmente dagli americani, dalla CIA addirittura. Sarà uno dei modi poi della CIA, ma prima ancora insomma da parte degli americani, di in qualche modo fare un discorso culturale a loro pro sul piano religioso, per cui c'era questa situazione particolare. E in Costa Atlantica, oltre ai Miskito, c'erano un altro paio di etnie, una delle quali purtroppo fondamentalmente sterminata già dai tempi insomma degli spagnoli e così via, che era l'etnia Sumu. Ne erano rimasti solo 800, per cui per esempio io ho partecipato a un progetto che prevedeva la costruzione di 4 posti di salute in un posto appunto in questa zona tra l'altro molto particolare anche da un altro punto di vista, perché in quella zona ci sono anche le miniere di oro, miniere di rame, ma più che altro oro e argento, insomma. Però ecco, nell'estrazione dell'oro, tra l'altro, veniva utilizzato per poter separare l'oro dal resto il mercurio, per cui hanno avvelenato i fiumi della costa atlantica e quelli che sono stati più danneggiati da questo, per esempio, sono queste etnie, questi Sumu. E quindi si trattava di fare praticamente, questi posti di salute erano dei mini ambulatori dove l'intossicazione da mercurio. Sì, poi in realtà questi posti di salute non sono stati realizzati. So che con i soldi che siamo riusciti a raccogliere poi si sono comprati le jeep e ritenevano insomma più opportune in quella zona. Però ecco, lì c'è stata proprio la guerra dopo la rivoluzione, perché c'erano questi contras che in parte era Miskito, ma c'erano anche degli agenti statunitensi, eccetera, e ci fu una guerra. Ricordiamo per i più giovani i contras erano la controguerriglia finanziata dalla CIA e dagli Stati Uniti per combattere appunto i sandinisti. E quindi questa situazione molto particolare. Non lo so se vogliamo dire qualcos'altro, se no magari un'altra cosa interessante appunto della rivoluzione sandinista, tra l'altro un pezzettino molto corto, sì. Ce lo possiamo sentire, che certo. racconta una storia che fa capire anche quella, insomma, come ha funzionato la rivoluzione sandinista. In effetti i sandinisti erano riusciti ad arrivare a Managua già nel 78 e praticamente stavano assediando Managua. Poi però c'è stata una controffensiva da parte appunto delle forze di Somoza, per cui hanno dovuto indietreggiare, hanno dovuto ritirarsi, le famose ritirate strategiche. A circa 30 km circa da Managua c'è una città che era saldamente nelle mani dei sandinisti, che è Masaya, e nel mezzo tra l'altro c'è un territorio vulcanico, dove tra l'altro c'è proprio la lava, no? Non ci sono neanche le strade, ma c'è proprio la lava. E in effetti, appunto, che cosa succede? Che appunto i sandinisti sono costretti a retrocedere, quindi a fare questa ritirata strategica, che chiamano R-Pieghe, da Managua a Masaya. Però il problema era che la popolazione che li aveva aiutati nelle zone liberate di Managua rischiava poi di subire la repressione, per cui in una nottata praticamente i sandinisti riescono in qualche modo, scortati appunto dai combattenti dei sandinisti, a portare tutta la popolazione che aveva interagito con loro di Managua a portarsela dietro fino a Masaya. Un'evacuazione praticamente. Tant'è vero, sì, e questa cosa è una cosa che veniva molto ricordata, anche ora non lo so. Sicuramente a livello organizzativo e tattico non deve, cioè, una cosa bella grande, sì, cioè, una cosa piuttosto impegnativa. E tra l'altro, soprattutto se si parla di una guerra di guerriglia senza la logistica, soprattutto di un esercito regolare. E tutti gli anni questa cosa viene ricordata, non solo viene ricordata, ma davvero la sera al tramonto si partono da Managua, da una delle piazze centrali di Managua, e vanno a Masaya e arrivano là il giorno dopo. E l'ho fatta anch'io una volta, distruttiva, anche perché in effetti mi ricordo ero convinto fosse, ero giovane, era una passeggiata, per cui ci andai con i sandali comprati in Aragua e c'erano tutti questi sassini della lava e mi ricordo che a un certo punto mi sono buttato per terra, solo che lì è tremendamente umido e quando mi sono rialzato la mattina ero in delle condizioni, insomma una cosa piuttosto impegnativa, ma al di là della mia esperienza personale, insomma, quanti chilometri stiamo 30 chilometri. 30 chilometri, quasi una maratona, via. Sì, te l'ho detto, partono, ora non lo faranno più, penso, visto come stanno, visto l'andazzo difficile. Però appunto lo facevano tutti gli anni. E se non c'era un caldo terribile, c'era l'acqua. Una delle due comunque c'era sempre. Sì, e poi la notte lì cade l'umidità, è terribile, insomma. Per cui sì. Però questo gli ha permesso poi di ricomporre le forze, di ricompattarsi, eccetera, eccetera, e poi di dare l'assalto finale nel luglio del 79, portandosi dietro tutta la popolazione. E in quel caso, per esempio, appunto, magari con quelle canzoncine ci siamo sentiti prima, inquadrandole anche proprio nelle truppe combattenti, perlomeno chi era in grado. Certo. E questo qui è. Ci sentiamo la canzoncina, che tra l'altro dura poco, che è nel canto, insomma, è R-Pieghe. R-Pieghe, trovata, R-Pieghe, sempre di Godoy. Siamo qui a parlare del Nicaragua, sempre su Radio Wombat. C'era un ragazzo di quel... Hace ruido con hojas secas y la orden fue cumplida hasta por la naturaleza. No todos los corazones, queriendo alcanzar más allá, queriendo entrar a más allá, aquella columna de agua, de sudor y de esperanza. Milicianos combatientes bajo la noche cerrada, mujeres, niños y viejos curtidos por la batalla. Divisamos Nindilí, territorio liberado, pero la orden del frente fue cumplida palmo a palmo. Mantuvimos la cautela para no ser detectados. Con su aliento de coraje nos anima a ver Santiago. Ci stavi raccontando appunto, Emilio, che avevi conosciuto... Sì, delle persone che avevano partecipato. Perché, diciamo, questo anche in onda, perché è molto interessante, sì, sì, direi. Sì, sì. Anche al Repieghe, uno di questi ragazzi, che è uno dei feriti di guerra a cui si stava costruendo la casa, lui e la sua famiglia, che prima avevano praticamente... una casina di 2 metri per 2 metri, che era 4 pali in nylon girato intorno, e le cose favolose che vedevi lì è che avevo scoperto che c'erano le antenne paraboliche praticamente fatte con un ombrello, tolto la tela, girati i rami dalla, cioè le bacchette, mettevano la carta stagnola che trovavano a giro così e si facevano le antenne. Dopo, se funzionavano non lo so. E lì scoprì una cosa terribile, che questo ragazzo aveva 2 bambini, e gli dissi: porca miseria, ma non avete da mangiare, ma avete la televisione, una cosa che da occidentale e mi fa, però quando lui mi disse, però quando non hai nulla da dargli da mangiare, gli accende la televisione, vedono i cartoni animati e loro rimangono lì a bocca aperta, si dimenticano la fame, e fa, a voi vi sembra una stronzata, ma a lui l'aveva trovato come una soluzione che facevano in tanti lì. Certo, poi ci raccontavi appunto che costruendo le case per i reduci avete scoperto che poi era... tutti erano reduci e tutti non avrebbero voluto... e usufruire di questa abitazione. Esatto, non potevi, poi erano in tanti quelli che arrivavano lì, perché era uno di quei terri che durante la pignata, quando regalarono questi terreni sandinisti prima delle elezioni, sì, sì, sì. E così, e tutti avevano preso questo pezzo di terrina, che poi dopo alle case era bellissimo, perché noi ci attaccava la corrente, però dopo non sapevi dove andare a... E c'era questo mio amico, che anche lui trentino, che col cavo si prendeva i cavi, gli si metteva in cima ai fili un coso di rame grosso e si attaccavano direttamente ai cavi elettrici che passavano lì. Era una cosa per noi. Faceva le derivazioni con un gancio. Esatto, con un gancio. E tutto ci si arrangiava così. Era una cosa... Se volevi la corrente elettrica dovevi andare a prenderla dove c'era. Esatto. Fa il paio insomma con quello che ne so che c'è anche a Cuba, insomma, no? A Cuba si vedono questi macchinoni ancora degli anni 50 e 60 lasciati dagli americani, che non si sa come riescano ancora a far circolare. E a tanti gli hanno cambiato i motori. Perché? La necessità aguzza l'ingegno, sono riusciti a trasformare quelle macchine lì, farle andare ancora con motori di altre macchine. La necessità aguzza l'ingegno, come mio padre mi raccontava che prima in macchina bastava avere una serie di chiavi, un po' di fil di ferro, un martello e uno spinterogeno, risolvevi praticamente quasi qualunque cosa che poteva succedere a una macchina. Adesso si ferma, la lasci lì, basta. Ora non puoi fare più niente perché è tutto elettronico e non puoi svitare più neanche una vite, perché c'è le viti speciali che, se non hai le chiavi apposta, non puoi fare niente, poi è tutto esatto. computerizzato, quindi non puoi fare quasi neanche più sostituire una lampadina di un faro, neanche la candela. Esatto. Io ho visto in Nicaragua ricaricare i nostri accendini di plastica, che non era il BIC, che non sono ricaricabili. Gli toglievano il tutto sopra, poi con un ago entravano dentro, rimettevano dentro il gas e poi dopo lo rimontavano. E questo l'ho ritrovato anche a Cuba, che c'erano questi tavolini lungo la strada dove ti ricaricavano gli accendini. Sì, gli accendini. Era fenomenale. Perché con una spilla entravano, alzavano il pispolino, quello che si deve alzare così, e da lì riuscivano a mandargli dentro il gas se l'era alzato, e poi dopo un colpo tirata via la spinetta ed era ricaricato. Sì, è tipico appunto delle situazioni in cui c'è questa cosa dell'embargo, no? Appunto a un certo punto arriva l'arma statunitense, anche quella, per cui certe cose. Anche perché, appunto, non l'avevamo detto, ma in Nicaragua durante il sandinismo c'era Stati Uniti avevano fatto l'embargo, nonostante gli arrivasse, riuscivano ad arrivare gli aiuti da Cuba. Sì, sì, però minarono il porto di Bluefield. No, anche quello sulla costa del Pacifico. San Juan del Nord. Sì. E San Juan. E lì la minarono e gli aiuti non potevano più arrivare dalla Russia. C'erano un casino di navi ferme fuori perché finché non veniva sminato non potevano rischiare di portare. Ma quindi riuscirono comunque a interrompere gli aiuti anche da Cuba. Sì, tra l'altro, in effetti, per esempio, fu fatto un grosso lavoro. Perché appunto dicevo Costa Atlantica e Nicaragua, e lì per esempio la CIA, insomma, comunque i gruppi, i Contras, sì, ma anche proprio le truppe speciali statunitensi avevano minato tutti i porti, per cui ci fu un grosso lavoro di sminamento da fare, e una delle cose che furono fatte appunto dopo la rivoluzione era di fare l'addestramento dei subacquei in modo da poter sminare, per esempio, proprio perché tutti questi porti erano stati minati. Stati minati dagli Stati Uniti. Sì. Vabbè, e nulla, come ci avviamo un po' alla conclusione, anche perché da parecchio si chiacchiera, quindi mettiamo una canzoncina. Mettiamo una canzoncina di quelle proprio di folklore, sempre dei nostri, Juancito Tiradora, che questa è proprio una canzone folcloristica, se la trovi. Ora la cerco. Trovata, Juancito Tiradora. Sempre qui a Radio Wombat a parlare di Nicaragua. Che dia. Juancito Tiradora nació montaña adentro. En los bejucos, como un zorzal de cerro, y copiando las frutas, menudo chichitote, robando en los solares la miel del tibuilote. Juancito Tiradora no tuvo nunca nada, pero se sintió dueño de toda la montaña. Aprendió a amar el surco, la milpa y la quebrada, las cosas a su lujo. Juancito Juan Tiradora, Juancito Juancito Juan, dueño de mil pasiones. Juancito Juan, Juancito Juan Tiradora, Juancito Juancito Juan. casi auroras. Juancito, Juancito, Juan. Conoció fronteras, pero olvidé decirte que de otros es la tierra. Mordió tu sangre dulce, la bala de un cobarde. Lloraron los pocoyos cuando cayó la tarde. Ahora que ya nada tu libertad limita, practicas en las noches tu enorme puntería, vas derribando estrellas que caen en el río y luego de enjuagarlas las vives al bolsillo. Juancito Juan tiradora, Juancito, Juancito, Juan, dueño de mil paz y auroras, Juancito, Juan, Juancito, Juan, tiradora, Juancito, Juancito, Juan, dueño de mil paz y auroras, Juancito, Juan. Juancito Juan, tiradora, Juancito, Juancito Juan, dueño de mil paz y auroras, Juancito Juan, tiradora, Juancito, Juancito Juan. E questa era Juancito Tiradora. E stavamo dicendo appunto dei porti minati del... dei forti minati per impedire gli aiuti al Nicaragua, e Emilio ci stava raccontando appunto di questo episodio che avevi vissuto o ti era stato raccontato? No, mi era stato raccontato. Mi era stato raccontato. Sì. Che vennero, che ci raccontavi appunto dei cubani che erano arrivati a sminare. Sì, sulla costa atlantica dopo l'uragano dell'89. Di non, penso che era l'89 che San